voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Piero Saulli e Green Network, 10 anni di energia, di Alessandra Scaglioni. La storia di oggi è quella di un'azienda nata 10 anni fa e creata da un imprenditore con un passato da manager che, in un mercato dominato da multinazionali e colossi come quello dell'energia elettrica, oggi fattura oltre 2 miliardi di euro, fornisce energia a moltissime aziende italiane e si sta rivolgendo anche a nuovi mercati. L'azienda si chiama Green Network ed è stata fondata da Piero Saulli, che oggi ne è presidente. L'azienda nasce nel 2003, praticamente. Il mercato libero ovviamente è un'azienda che opera sul mercato libero dell'energia, quindi identificato dal decreto Bersani come grossista di energia. Nasce nel 2003 in quanto il mercato ha cominciato i suoi primi passi di liberalizzazione sin dal 2000. Poi ovviamente in quel momento, proprio all'inizio del mercato, io ero in un operatore importante, ero in Enel, lavoravo in Enel e ho lavorato in Enel fino alla fine, praticamente fino a marzo 2003. Poi ho deciso di uscire giugno 2003 praticamente abbiamo costituito Green Network. La decisione di far partire l'azienda non è facile, perché i competitor sono forti e il mestiere dell'imprenditore richiede un approccio ed una visione totalmente diversa. Non è facile, non è assolutamente facile, perché ovviamente è un mercato dove ti senti piccolo, visto che i tuoi competitors sono o multinazionali o l'incumbent italiano, Enel piuttosto che Eni, piuttosto che le municipalizzate, quindi aziende strutturate, forti, e tu sei lì e ti senti molto molto piccolo. Quindi i primi anni sono stati non poco difficili, insomma, è una situazione imbarazzante certe volte. Forse, come dire, il consiglio che uno può dare è di non mollare, perché all'inizio si passa da una, almeno quando uno fa il manager in una grande azienda, si trova in un ambiente abbastanza confortevole, tutto sommato. Forse oggi un po' meno, nel 2003 lo era molto di più. E quindi viene scaraventato ad affrontare, passando alla fase dell'imprenditore, viene scaraventato ad affrontare tutti i possibili problemi che ci sono in uno startup di un'azienda, che sono tanti e che prima uno non aveva mai affrontato, perché ovviamente fare il manager in una di queste grandi aziende significa occuparsi di una cosa pensando che tutto il resto lo fanno altri. In un'azienda come la nostra sei costretta a vedere a 360 gradi il business, quindi questo il passaggio, se mi posso permettere di consigliare, può avvenire solo se il manager ha il coraggio di mettersi di nuovo in discussione su ogni parte del business e se ha, come dire, anche una cultura che gli consente di vedere il business appunto a 360 gradi, altrimenti è pericolosissimo. Il progetto prende il via con un'idea precisa: rivolgersi ai grandissimi clienti, quelli con cui Piero Saulli aveva maturato la sua esperienza da manager. E quindi siamo partiti da lì. E questo, devo dire, tutto sommato ci ha consentito di continuare ad avere un rapporto con questi grandi clienti che poi si è sviluppato nel tempo e tuttora abbiamo una grande parte del nostro portafoglio, circa un 70% del portafoglio che è costituito da grandissime aziende italiane. E poi ovviamente è partita con l'idea di, come dire, offrire ulteriori servizi a questi, combinando la fornitura con un'attività di consulenza, con un'attività di energy management che in quel momento era molto richiesta. Ovvio che le cose poi nel tempo sono cambiate, è un mercato che ogni anno ha cambiato pelle, quindi noi ci siamo, e questa forse è stata anche la grande opportunità di Green Network, quello di avere una struttura snella che ha avuto la possibilità ogni anno di reinventarsi. L'azienda cresce, si struttura, acquisisce nuovi clienti, sviluppa progetti ed affronta non poche difficoltà in un mercato con caratteristiche particolari e dove devono essere prese frequentemente decisioni di cambiamento. Per quanto ci riguarda, lo è ancora di più difficile, perché ovviamente, come dicevamo prima, questo è un mercato dove sono presenti molti big che eventualmente possono anche fare strategie diverse e rischiare, senza pensare che l'errore tanto comunque lo possono, come dire, diluire nel tempo, ripagarlo e così via. La nostra difficoltà, la difficoltà enorme che Green Network ha vissuto sempre e continua a vivere, è una difficoltà che poi è una sfida, è bello, è comunque quello di fare pochissimi errori. Cioè, quindi non abbiamo la possibilità di permetterci di avviare 5-6 iniziative e poi dire vabbè, vedremo come va. Noi dobbiamo, e questo un po' ci ha contraddistinto nel tempo, anche oggi, fare molta analisi prima e decidere questa è la strada, quindi puntiamo tutto su questa cercando di non sbagliare. Sin dall'inizio Piero Saulli lavora assieme alla moglie Sabrina Corbo e quando parla della sua storia d'impresa utilizza il plurale. Mia moglie lavora con me, è l'amministratore delegato dell'azienda e io il presidente. Diciamo che l'idea ovviamente era mia. Poi, per dirla tutta, all'inizio non sapevo neanche cosa fosse. Passare da un'attività di management, a fare il manager in una grandissima azienda, una cosa bellissima, a fare l'imprenditore sono due cose completamente diverse. Ci sono serviti 2-3 anni per capire chi ero. In quella fase, devo dire, mia moglie mi è stata molto vicina, perché io a un certo punto ho preso questa decisione, ovviamente molto combattuta, e quando uscì dall'Enel, devo dire, una delle alternative era fare questo passo. Le altre alternative era ritornare in un'altra grande azienda, quindi avevo 2-3 opportunità, poi ho deciso, ma forse in questo momento posso sentirmela di rischiare e facciamo questo passo. E lei mi è stata vicina, quindi devo dire tutto sommato che in tutto questo percorso è stato sempre condiviso con mia moglie, quindi abbiamo in quel senso. Con oltre 2 miliardi di euro di fatturato annuo, Green Network è ormai una realtà che fornisce energia alle grandi e grandissime aziende italiane, a cui oggi si affiancano le piccole e medie imprese e che si sta rivolgendo adesso anche al mercato dell'utenza domestica. Se uno considerasse il mercato nell'energia venduta, all'ingrosso, wholesale o al cliente finale, tutto sommato Green Network nel 2012 e 2013 rappresenta, secondo me, in termini di energia venduta, un operatore che ha un posto tra i primi, perché abbiamo venduto nel corso del 2000 e venderemo alla fine del 2013, ma comunque anche nel 2012, energia per un volume complessivo superiore agli 11 miliardi di kilowattora. Quindi è un'azienda che comunque fa girare tantissima energia verso i clienti finali. È un'azienda che è proiettata, come dicevamo prima, su segmenti di clienti energivori, quindi grandissime aziende, e poi nel tempo, come avevamo detto, ha cambiato pelle. Quindi mentre prima, come dire, all'inizio era un'azienda dove il 90% del fatturato veniva fatto su grandissimi clienti, oggi i volumi sono cresciuti e circa un 30% del fatturato è fatto su piccole e medie imprese e domestico. L'allargamento del mercato di riferimento ha comportato anche una riorganizzazione aziendale. Il progetto è partito nel 2012 come strategia. Poi ovviamente abbiamo prima, proprio per essere efficienti e non rischiare di nessun boomerang, abbiamo pensato prima a organizzare e strutturare l'azienda all'interno, quindi potenziando tutto quello che sono i sistemi di fatturazione, di contabilità, potenziando le attività, formando un call center che abbiamo all'interno. Quindi abbiamo prima costruito tutto questo e ci siamo sentiti pronti praticamente nei primi mesi del 2013. Da quel momento poi abbiamo avviato una campagna commerciale e una campagna pubblicitaria proprio per informare, diciamo, il mercato che Green Network stava anche andando in quella direzione. In azienda lavorano circa 70 persone, per la maggior parte giovani, ed i progetti di sviluppo hanno comportato anche la riorganizzazione del personale e soprattutto una nuova struttura di management. Sono tutti molto giovani, tutti cerchiamo di prendere persone che poi formiamo al nostro interno. C'è stata una rivoluzione importante nell'ambito aziendale dal 2011-2012 in poi, dove effettivamente ci siamo resi conto che non era più possibile affrontare queste sfide, lato finanza, lato trading sull'energia, sui vari mercati, con competenze lato gas, perché abbiamo avviato anche tutto un processo sul gas. Non potevamo più svilupparle con le competenze che avevamo all'interno, dovevamo assolutamente prendere manager esterni che potessero contribuire nello sviluppo del know-how e formare le persone all'interno. Quindi c'è stato anche un totale stravolgimento a livello di management. Sono entrati negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, praticamente figure importantissime nella nostra azienda che mi hanno consentito di sviluppare tutto questo percorso. Quindi abbiamo stravolto totalmente con l'ingresso di un nuovo direttore finanza. Abbiamo assunto un direttore commerciale che aveva tutta una serie di competenze specifiche sul gas che noi non avevamo. Abbiamo assunto un direttore tecnico per tutto lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Quindi abbiamo assunto un direttore trading per tutte le attività di trading che adesso abbiamo sviluppato e stiamo portando anche con una nuova sede all'estero, cerchiamo di praticamente di svilupparle a livello europeo. Quindi ci sono stati ingressi di figure strategiche che ci hanno consentito questa apertura verso anche un'internazionalizzazione dell'azienda. Un gruppo che fornisce un servizio che eroga energia alle altre aziende è un termometro dell'andamento del mercato e dei segnali di crisi, che si sentono sul versante finanziario con la difficoltà di pagamenti delle aziende clienti. È un'azienda particolare la nostra, è un'azienda che compra e vende energia e gas. Quindi potremmo catalogarci come un'azienda che offre un servizio. Quindi non abbiamo un magazzino, l'energia non siamo ancora riusciti a immagazzinarla in grandi quantità. E quindi non abbiamo il problema del non venduto che possono avere altre aziende. Come dire, quindi non abbiamo problemi che possono avere le imprese manifatturiere. Però il vero problema che stiamo affrontando in maniera importante nell'ultimo anno, forse da metà 2012, è proprio il problema del credito, perché effettivamente tutte le aziende che forniamo, chi prima, chi dopo, è effettivamente un affanno nei pagamenti, ce l'hanno avuto, lo stanno avendo, continuano ad averlo, e questo genera una particolare attenzione da parte nostra a tutto lato finanza, perché effettivamente far girare 2 miliardi di fatturato vendendo 11 miliardi di kilowattora è comunque una cosa complicata, paradossalmente oggi non più per quanto riguarda l'energia, ma soprattutto per quanto riguarda la finanza. Mi ricordo nella mia esperienza passata in Enel, piuttosto che all'inizio di questa avventura, nessuno immaginava che l'energia elettrica anche a livello industriale non si potesse pagare, cioè era l'ultima cosa che un imprenditore pensava di non pagare, perché significava poi chiudere l'azienda. Oggi è difficile dirlo, però è così, molto, molto spesso anche la fornitura di energia e di gas viene non pagata, e quindi questo dà un po' il segnale della situazione attuale. Anche se qualche segnale di ripresa negli ultimi mesi si sta sentendo. Speriamo che questo periodo finisca presto e che tutte le aziende ricomincino a produrre e comincino a risolvere i loro problemi. Noi ci auguriamo che già dalla fine di quest'anno effettivamente qualche cambiamento ci possa essere. Non nascondo, devo dire la verità, a parte il problema, noi abbiamo due sensori. Uno è quello ovviamente del credito, l'altro è quello dei consumi. E da questo punto di vista non nascondo che molte aziende in questo secondo semestre hanno ricominciato a consumare energia in maniera importante rispetto al primo semestre di quest'anno e rispetto al 2012. Quindi forse questo può essere un segnale che qualcosa si sta muovendo. E tra le prospettive di progetti per Green Network ci sono anche le energie rinnovabili e la ricerca di nuove opportunità in Europa. Noi abbiamo da circa 2 anni avviato 2 percorsi. Il primo è sulle fonti rinnovabili. Abbiamo avviato 2 o 3 iniziative all'estero, una tra l'altro è stata appena conclusa. Abbiamo realizzato un parco fotovoltaico in Romania molto importante e stiamo guardando con attenzione le biomasse in Brasile. Questo è un po' quello che stiamo facendo lato rinnovabili. Poi, per quanto riguarda invece il trading, abbiamo aperto una sede a Londra. Abbiamo cominciato a guardare con attenzione i mercati europei, quindi siamo attivi su tutte le piattaforme europee dove ovviamente il mercato è liquido, Germania, Francia, Svizzera, Austria. E l'obiettivo è quello di mantenere sempre il core business nella vendita ai clienti finali, però lato sourcing, lato acquisto di energia e lato trading vero e proprio, ovviamente ci stiamo spostando nel cercare di cogliere le opportunità e i margini che si possono cogliere nei vari paesi europei. Non ultimo, stiamo anche aprendo un'ulteriore sede a Belgrado per affrontare un po' il mercato dei Balcani, sempre e comunque con l'obiettivo di fare trading e da una parte comprare energia per i nostri clienti italiani e dall'altra approfittare delle opportunità che si possono presentare nel comprare e vendere energia tra paesi. Si chiude qui questa puntata di Voci d'Impresa dedicata a Green Network. L'appuntamento è per domenica prossima.